attenta, cuffetta, cuffettina. Babbo, cucù, babbo, babbo, chi è? Attenta, fuffetta. Ehi, mimmi. Babbo. Attento, Gianni Maria. Babbo. Cuffetta, ci si. Che chiave, Gianna Maria, fatti. Buonasera, buonasera. C'è anche Guffetta. Chi è quello che sta a Boboi? Dice Boboi. Ehi, you. Avanti, Boboi. Non vuole entrare, no? Vuol dire ne parlato da Ruretto. E allora si affaccia su qua. Attento, Luca, lavare ti dici. Mi sa lavato i denti dei piedi. Ci ha lavato, grazie, fatto. Con parlana? Tutto lavato, tutto. Bene, meglio così. E non ci sei andato già a ciocca? Vuoi venire ad adorarmelo? No. Ti è venduto il cocco, 30, 12 dozzine. Miniani strappati da mano. Già va bene il prezzo. E ma devo andare a mangiare, niente. Vero, Gianmari? Eia. Così diventa un giocaiolo. Così è. Va, puoi andare pure a Cioghita, che era un tempo, va, comincia. Luca, la giornata vecchia, andiamo a mangiare un ghizzo. Arrivederci, è già finito. E poi te la vendi. Io sono sempre andato a travagliare, grazie. Sempre. Chi si gioca, chi si andato a travagliare, che molte volte mai vai a lavorare e non ci sono i soldi, ecco, per pagarti. Ma sono sempre andato. Ma dico, se non c'è lavori extra così, invece di cassa senza valuta te ne vai all'umacchine, all'umacchine, ci cagatti, là. E poi te lo vendi. Però non c'è senza valuta. Meglio che ci che nuda. Capito mi hai? Ferentina, sta cacciocando nuda. Vero Lu? Non mi rispondi a me. Vabbè, riprendi, grazie. Sì, Gio Mari, tanto riprendi tu. Non ho capito cos'è, sto saldando un attimo, scusate. Salda, sta saldando Gio Mari. Faccialo saldare allora. Ebbene, ho guardato io i film western, te li hai visti Gio Mari? Cos'è? Mi ha guardato due film western. Oh, ebbene. Ehi, ne ho visto troppo io, va. Nel gioco quando facciano i film, i cappuccini, i frati, che erano i muzzi. Ma sai che ti faccio vinci gli indiani e di tutti i pareri. Allora non mi fidate di più. E chi c'erano i due film che li ho visti quando ero ragazzino, western, antichi di la valla, però già parlavano da bianco e nero erano, e già erano belli. A Rai Movie me li ho guardati. No, mi va, abbiamo acceso adesso, con Gerry Scotti, stiamo guardando a Gerry Scotti adesso. No, quello non me lo sto guardando. Qualche volta, qualche pezzo me lo guardo. Hai visto quel tipo? È bravo quel ragazzo, eh. Ha vinto già 400.000 euro, ti puoi immaginare. E ancora da quando è iniziato c'è sempre lui, eh. Ah, lo so, eia. Se avrebbe vinto tutte quelle volte che c'è sceso. L'aveva superato, minimo era arrivato a 1.000.000 euro, ci sarebbe già arrivato. Già lo so che ha fatto quei soldi. Però ne ha perso parecchi, se calcolavi tutte le volte che c'è sceso un bel di navi ha fatto ancora. E poi un bel bravo. Un bel bravo, eh. Bravo, questo passerà alla storia. su questo programma, questo ragazzo è bravo veramente, capito? Però adesso mi salutando all'ultimo coso, troppo roba, roba magari del Medioevo, e allora qualcuno la sbaglia e capita che non vince niente, però gira gira ogni tanto qualcosa la vince, dai. L'altra sera la Ghedda Abbassata ha vinto quel programma, quando lo sto guardando io c'erano 75.000 euro e li ha vinti, invece il giorno prima ce n'erano quasi 300 e li ha persi per due domande, che poi le domande erano una fesseria, solo intanto non la sa buttare, capito? Erano facilissime, ma per lui non le sapeva. No, è bravo. E adesso, siccome sanno che è molto bravo questo, che ha vinto parecchi soldi, adesso li mettono un po' più cose più difficili, capito? Però in mezzo a tante difficili, può darsi che riesca qualche volta a saperle anche. Sa, ecco perché magari ne ha vinto su questi soldi, però è troppo bravo, troppo bravo. Conta, da quando ha iniziato questo programma c'è sempre lui che ha come campione, capito? E tanto ogni tanto qualche cosetta se la porta via. A voglia, non è che alcune sono difficili di quelle che non ha indovinato, ma alcune anche di quelle che non ha indovinato erano facilissime, solo che lui non ci è arrivato a quelle risposte, perché quella dell'altro giorno era facile, lui sapeva bruagliette di pubblico, però a lui non ci arrivava, capito? Ti hanno grillato queste risposte e queste cose, è chiaro che qualcuno se la dimentica e per il momento non ce la fa, capito? Però diciamo è troppo bravo, troppo, ecco. Lo sto dicendo, questo passerà alla storia perché non c'era stato un altro come questo, capito? È l'unico. Ebbene, è logico che passerà alla storia, sì. E poi l'ho sentito quando Gerry Scotti gli ha detto come fa a fare l'allenamento. E non l'ha sentito, gli ha risposto facendo cruciferma. Sì, è molto attento, è molto intelligente anche, capito? Sulle cose, evidentemente la persona è adatta, ha studiato e sta studiando sempre, per cui è riuscito a avere qualcosa di buono, ecco. Già lo credo, chi su praticamente si è già sistemato il futuro. E se continua a vincere diventa un bel ricco visto. E poi con l'intelligenza che c'ha, chissà cosa farà un indomani come mestiere. Visto è destinato a diventare ricco e un bel puro. Però l'intelligenza c'è, è bravo, è un ragazzo per bene, tranquillo. Sono contento per lui. Bravo, bravo. Ne farà con 400.000 euro, uno qualcosa la fa, e ancora sta giocando, chi la sa, può darsi pure che gli vada anche più bene qualche altra volta, io glielo auguro, perché è troppo bravo, se lo merita, ecco, e per cui bisogna tifare per questo ragazzo. Ma la gente così, con un salvezzo così, un bene, lavorerà sicuramente in un lavoro dove fate un bene di nacchissimo, perché è un bene intelligente, compreso. E dunque già se la sa sfruttare bene la mente, il cervelletto. Va cranio, va. gli fa bene, gli fa bene, nel senso che poi stanno qua a Bubugliolo, fa tutte queste domande, Poi così mi alza canto rugabo rigira canto sono tutti che si domande volte da canti so e canti domande a indovinato e canti cose vai in capo e tu pensa che ci fa di cruciferma è imparato per di cruciferma e dunque uno che fa cruciferma sa tante di quelle cose che tu manco un'idea ne gli dai dei rifugi e se qual è quale non è capito e la gente che fa cruciferma c'ha un bel cranio mio. Fa l'intelligenza mia ma fa l'intelligenza e poi anche studiato per cui oh se lo merita dai se lo merita perché è troppo bravo ecco se lo merita quello che ha vinto se l'ha meritato veramente perché è troppo bravo. Allora posso fare la domanda a Paletta di la Giammani a chi Paletta sta sempre bene cruciferma ed è pure brava che si ripreti tu e la raghetta si rimagna li fini subito. Fai la domanda, grazie, fai la domanda e la mandi a sopra, guarda, dagli riscotti. Può darci che la vince anche migliori, da burro. Io un periodo lo facevo, però poi mi ha stufato, e riuscendo in pure di gambe e non ha più fatto. Avete invece si affetta, si muore l'uretto, salta la padella. Si muore l'occhiale, la stendera di vista, la cucina di vista e compile, io la vengo sempre crescendo e crevendo. Eia, eia. Grazie, mi fermo che hanno suonato. Ehi, vai, vai, Luca, saldato va. Ma il computer ti stai aggiustando, quello della tastiera. Chi è? Avanti. Cuffetta, cuffetta, da cuffetta! Saldato hai! Sì, sì, no, no, si è rotto un piedino di una pennina, capito, grazie. Niente da fare. Sono quelle pennine USB che poi ci metti la micro SD. Cosa hai detto? Ho detto che è una pennina USB che si mette nel computer, che ci puoi mettere la micro SD. Ah, già ce l'ho anche io la penna. L'ho trattata un paio di volte e poi ce l'ho conservata. E vabbè, io già la uso. Oggi faccio la banda con un tamburello. Che è vero, mia madre che fine ha fatto? Ma si è abbassato al forno e è andato. Deve essere insieme a vero. Oggi tosta nel ripieni in forno con patate, morariti, imbuttiti, culariva, morariti, aglio, prezzemolo e peperoncino. È vero. E allora, me la giovania do 4. E va tu, vedi, ma è un panino e boh. A prima mi ho fatto i gnocchetti sardi con il suo ragù e poi in forno i totani imbottiti, bonariti, ma canutti non mangio. E fai beh, non mangia grazia. Sono con tamburello, faccio la panza blu, roba a macchia. Adesso inizia il caldo, la birretta fresca. No, la bibi cueva, non bevo né vino né birra. Prima qualche tazza già me lo bevevo di vino, birra no. Qualche volta così in campagna, in compagnia, uno o due bicchieri. Ma adesso non lo so, già sono con la senza vini. Vabbè. No, già ci sta d'estate, dai, a me già piace. L'inverno un po' di meno, ma d'estate ci sta. Ma se no io mi bevo limonata, oppure il Gatorade, quella al limone, questa roba così, già me li compro, e ce l'ho qua. Ah va, Rughetti, mi dà giù 3 chetti che mi sono plaggio di caldo, stamani ha giù mica di tuita, adesso non è buia. Già va bene. Queste cose così già me le bevo già, quelle di 70, là, diciamo, quella roba così, anche il coso, succhi di frutta, la pesca, la pera. Sì, già vanno bene anche quelle. Se no poi non posso guidare. Se ti trovano tracce di alcol, poi guidando, ti arrestano. Ciao Mari! Stavo mandando un messaggio a Luca, grazie. Stai mandando un messaggio a Luca. Luca sarà cubicando il braciere per arrossire. No, sto mandando un messaggio. Se avessi i venocchi. Aia. Se no, casino, ti bozzo. Mi serve. Arrivare no, che ne lavare nel cornicione, ma è passato pure un faretto che era un'altra ringhiera. Come c'è staccato un pezzo di quel calcestruzzo, me ne l'ha cotto io. Ho chiamato il pompiere e l'hanno picchettato tutto. Addirittura. E allora si passa anche di lui da matto, ogni pezzo di angolo vale sceso, era l'intonaco il pezzo del calcestruzzo. Si è staccato dal ferro, si è scoppiato, capito? Come ha abbassato la tenda, ha detto giusto, si è parato in garage e giù nel marciapiede. Bisogna fare una pezzi che ti facciate, se non ribattini, se non si attrinza l'ente popolare. Ammazza cacche di un inocchio, Come soldi ne hanno, non ci sono soldi. Che so, siete un quarto. Sono un po' stanco oggi, vabbè, dobbiamo stanotte. Perché la notte è fatta per dormire, non per fare l'amore. È vero, Marino? Ciao, ben sentito, avanti. Tutte le ore sono il Dio, Graziano, buonasera anche agli altri amici, no, io non sono per fare le case, non sono che non si stai parlando. Allora lo senti a Marino, Luca. C'è problema, guarda, mattina, notte, sera, non c'è... Stai schiacciando a Marino, Marino, a Luca non lo senti. Che sto facendo cosa, dai, avanti. Ho detto a Luca non l'ha sentito. Non l'ascolto, non so a te ascolto. Solo a me ascolti. Vabbè, ci sono io e Luca. A Luca non l'ascolti. Luca, non ti sente, Marino. Almeno io lo sento. Marino, neanche Luca ti sente. Ti devi puntare l'antenna verso la zona tua, devi, dai. Lo sentivo l'altra volta, adesso non mi sente. Io sento solo a te, solo a te. Sempre un ottimo segnale. La modulazione è bella pulita, perché ti sei lavato e tutto qua. Avanti. Eia, ok. Luca ha detto di mettere l'antenna verso di me. L'altra volta ti sentiva bene. Diglielo che io l'antenna non la posso mettere. Cioè, no, c'ho quella piccolina, capito? Ah, Marino, c'ha quella piccolina l'antenna, l'altra non la può mettere adesso. Ok, dai, grazie. Già non mi ascolto, dai, sto ascoltando qualcosa di fuori, sto ascoltando, dai. E continuate, già... No, se non c'è nessuno, non sento nessuno, né da Chisio, né Tore, né Gio Maria, boh. Solo a te stavo ascoltando e basta, vabbè. Continuate, quelli che ci ascolto per me, dai. Guarda, in questi giorni, grazie, ci sentiamo e devo venire a portarti con la commissione, dai, ciao. Eia, ok, tranquillo, va bene, ciao Marino, buon proseguimento. Luca, riprendi. No, lo sento proprio basso, basso, basso, lo sento. Ma intanto doveva fare cosa e ci ha salutato, ritieniti salutato. Eia, andava, mi sta sistemando il vostro computer. Quello della foto. Eia, ma non c'è un trovo, non è questo qua, cazzo che fa. E piano piano ti racconti con calma. Quando l'hai fatto tutto, picchia e te lo vendi. No, questa rimane qua da battaglia, questa non mi vendi nulla. O te lo tieni lì, ma... E cosa ha detto che ne ha due, a pompugno, o in casa sua, senza usare? Stavo mandando un messaggio a Luca, grazie. Sto cercando una cosa qua su internet, card, kipster, LAN, USB, eccolo qua. Questo è questo qua, vediamo. È vero. E beh, dormita ti sei, grazie. Beh, farazzati, sì, sì, grazie. Ma cos'è un gusto di unto, grazie. No, stavo facendo cosa, mi stavo piegando le posate e le pentole. Scoppiato! Ora ti aiuto un gusto? No, mi stavo asciugando le posate e le pentole che c'erano nell'abbandino e nel coso. Nello sgocciolatoio avevo un paio di pentole posate da asciugare e me le ho asciugate e le ho messe a posto. Capito, stavo già avendo più voci. Stavo chiamando e tu mi hai aiutato anche scarica. Mamma mia, come sto, c'ho anche fame. Oggi a dieta. Non immagino, più tardi mi faccio un po' di tè per farmi l'insulina e boh, però a mangiare non mangio. Adesso che ancora di giri, voglio la pasta, un palloncino. Vabbè che di pasta me l'ho mangiato un piatto e mezzo e è uscito un bel buono lo sugo. E poi ho fatto le pipette rigate, quelle piccole. È buono. E poi mi ha mangiato tre di quei tottani imbustiti fatti in forno con un battato. Battato no, ma i tottani me ne ha mangiato tre con un mezzo panino là. Ho capito. Ma tu vai, grazie, mi ha mangiato. E poi mi ha mangiato una banana di frutta, una decina di ciliegie e quattro nespole. Dunque, ancora è travagliente, non si è farato. Aspetta un attimo, devo ascoltare un messaggio. Ehi, io. Ehi, aia, c'ho fame, sono te leggero, va. Gabba, gabba, gabba, gabba. Aspetta un attimo. Eh? Aspetta un attimo, dentro subito. Grazie. Eia. E cosa stai facendo? Siccome mi avevo ordinato delle batterie da Wish, mi sono arrivate, le stavo provando e già vanno bene, se erano cariche, già sono cariche. Sto a posto, sì, funziona? Sì, sì, infatti le ho messe a parte, già andare bene. Anche ero sicuro, a di te ci riprova, quindi già funziona. Meglio così, dai, meglio dai. Ma tu non è entrato, no? No, ci sono io e Luca. E voi? Oggi siete soli soletti, soli soletti, vabbè, dai. La chiesa dove sei impegnato, Tore, boh, Gio Maria, non si sa. Magari si sta riposando. Va bene, dai, ci sentiamo, rimango in ascolto, grazie, dai. Molte cose belle, dai, ciao. Eia, ciao Marino. Alla prossima, domani se coincide. Ok, tanto adesso spendo, tanto non ben nessuno, e da voi fra un poco il vostro insulino. Ciao! Luca! Io sono qua, grazie. Se sparisce ogni tanto, che non ben nessuno. stavo provando le due batterie che mi sono arrivate da Wishi, se erano cariche, se erano giuste, già sono giuste. Calavano bene? Sì, sì, perché in quell'altra uguale mi sembrava diverso dove appoggirti, invece è uguale. Siccome erano in offerta, li costavano la metà di quelle che costano qua e me le avevo ordinate. Mi sono arrivati i candela stati, le appoggiate lì e aggiungete le controllo. E adesso le ho prese e le ho guardate. E funzionano? Sì, sono anche cariche, ma le ho messe a parte, le avevo prese di scorta. Mi devo sì. Solo che mi deve arrivare a Stradosa, a da maggio, pure roba da maggio, dalla di 26 mi deve arrivare a Sigosa che aveva ordinato, e ancora non mi arrivi giunta, dice, perché avevo fatto delle ordinazioni e mi arrivano fino a luglio, però ce n'erano da maggio, maggio, giugno, anche questo mese me ne dovrebbe arrivare, e anche a luglio. Scusa, grazie, stavo mandando un messaggio, cosa hai detto? Che siccome avevo ordinato delle cose da quel sito cinese Wishi, e mi dovrebbe arrivare ancora la roba di maggio, mi sono arrivati le batterie e buh, e non riesco ancora a arrivarmi. Gli ho mandato un'email e mi hanno detto che la colpa non è di loro, che tarderanno a farglielo sapere se non arriva la roba prima dei 30 giorni. Ho capito. Vabbè, comunque, già arriverà, grazie, se non ti fa rimborsare. Ma però intanto mi raggiungo ad avvisare, perché c'era roba che mi doveva arrivare da maggio. E mezzo arrivati il batterizio, mi deve arrivare un cappellino e altre cose che ho ordinato. Ho capito. Cappellino? È un cappellino bellino. Siccome su un coso, su Zalando uguale identico, costava tre volte il doppio, invece dalla Cina costa un bel di meno ed è uguale. Vabbè, comunque, se vanno bene, non c'è problema. E allora, ma va arrivi? Cosa? Che avevo ordinato anche un anello in argento, bello, tutto argento. E ancora arrivimi, Arriverà, grazie. Ti mandi un'email, ti fa rimborsare. Semplice. Siccome non è arrivato il giorno come mi hanno detto loro, che era in consegna, io ho guardato e dice in consegna, ma non mi è arrivato un capo. Quello lì mi doveva arrivare dal 26 maggio. Il giorno 26 doveva essere qua. E però a me non mi arrivi giunta, in occhi perlomeno non mi giunta, già c'è scritto la roba che non mi arriva, quando mi arriva c'è scritto e c'è automaticamente, quando me l'hanno consegnato, perché quando mi arrivo scendo giù e firmo, no, con la firma digitale. Ehi, ho capito, mi sta chiamando Marina a cenare, grazie, tanto anche tu, è già tardi, ci sentiamo domani, grazie, ok? Ciao. Ciao, buona cena a te, a Marina, anche da parte di Paoletta. Ok, a domani. Salutona che in ascolto, circolare a tutti. Ciao, ciao. Eia, tutto quanto è cambiato, grazie anche da parte di Marina. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ehi, Mattia!